Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di organizzazioni, un po' tutti siamo comunque coinvolti nelle organizzazioni. Lo facciamo sulla base del libro di Frédéric Laloux, Reinventare le organizzazioni, come creare organizzazioni ispirate al prossimo stadio della consapevolezza umana. Già un titolo che meriterebbe un discorso proprio solo sul titolo. Ne facciamo con Alessandro Rossi, partner di PeopleRise, consulente di impresa, esperto di organizzazioni. Buonasera, dottor Rossi. Buonasera, piacere a tutti, piacere. Alessandro Rossi, allora, ha scritto la prefazione di questo libro di Laloux. Laloux è un esperto francese, portato questo libro, edito in Italia da Guerini Next. Appunto, nella prefazione si mette in luce come questo metodo sia un metodo rivoluzionario, un metodo che cambia le organizzazioni tradizionali e che porta le organizzazioni ad essere più vicine alla necessità di essere efficienti, efficaci e soprattutto di far lavorare bene le persone. Quali sono i principi di questo nuovo metodo, Alessandro Rossi? I principi sono legati proprio a un nuovo modo di intendere che cos'è l'azienda, che cos'è l'organizzazione. Noi tutti credo che o con esperienze personali dirette o con esperienze di conoscenti vediamo come le aziende di oggi in molti casi hanno delle difficoltà di funzionamento, no? O c'è la burocrazia, o ci sono i giochi di potere, o ci sono i cosiddetti silos organizzativi in cui ogni funzione fa un po' il gioco suo. Ecco, tutti questi elementi che possiamo definire organizzativi producono poi nelle aziende e nelle persone demotivazione, inefficienza, inefficacia. E questo paradigma che la luce propone è un paradigma che porta proprio una nuova visione dell'azienda, nel senso che sposta il focus attraverso un bel percorso che nel libro viene descritto bene, di proprio evoluzione dell'essere umano nel percorso storico, partendo da prima della rivoluzione agricola ai giorni nostri, proprio mostra come le organizzazioni sono cambiate, no? Come si sono evolute, e proprio da un punto di vista su come queste si siano evolute nel momento in cui l'essere umano nel percorso del suo sviluppo abbia fatto proprio dei salti di consapevolezza, dei diversi modi di intendere il mondo che hanno poi prodotto diversi modi di collaborare. Ecco, e arrivando ai giorni nostri, sposta il focus da quella che viene vista l'azienda, l'organizzazione come una macchina, quindi una macchina in cui tutto sommato le emozioni non servono, in cui tutto sommato il linguaggio parla di input, di output, di reingegnerizzazione, di colli di bottiglia, la sposta verso un focus dell'azienda come un vero e proprio organismo vivente che vive, in cui le persone tornano a essere l'elemento fondante, non più degli ingranaggi o dei numeri, ma proprio l'elemento vitale con cui l'azienda funziona. Ecco, in questa prospettiva si mette in primo piano la persona, la sua capacità, la sua creatività, e in un certo senso superando la logica delle procedure, delle mansioni, dei capitolati molto ben definiti. Ma non è un po' pericoloso per le organizzazioni lasciare un po' troppa libertà alle persone? Ma io direi che l'azienda è sempre una tensione tra individuo e collettività, no? Quindi tra libertà e procedure. Quello che posso dire è che un po' nella mia esperienza, ma anche vedendo i casi citati dal libro che poi sono andato a visitare personalmente, quello che si vede è che si ritorna a una certa semplicità, no? Di alcune cose con una visione più evoluta. In questa semplicità l'individuo fa la differenza, no? Se noi andiamo un po' all'essenza delle cose, tutta la burocrazia, tutte le procedure, tutti i processi sono un po' tutti dei modi per cercare il controllo e in questo modo perderlo, no? Sono una finta efficienza, sono una finta efficacia alla fine. E quindi è chiaro che non è un percorso né immediato né semplice né scontato, ma è un percorso in cui se si mette l'individuo veramente nella sua interezza al centro dell'organizzazione, gli si dà fiducia dentro una cornice di senso condivisa, i successi sono incredibili. Ecco, il libro inizia nei primi capitoli con una osservazione molto, molto interessante e paragona, cioè definisce appunto le organizzazioni secondo i colori. Ci sono le organizzazioni rosse, le organizzazioni arancioni, le organizzazioni verdi. Come mai questo cromatismo? Da come nasce questa capacità critica verso le organizzazioni associando i colori ai tipi organizzativi? Questo capitolo è veramente bello e usa questi colori prendendoli da alcune teorie accademiche che sono state sviluppate da due autori, in particolare Claire Graves e Ken Wilber, che hanno proprio fatto un percorso di studio associando questi codici colori, che sono proprio i colori dell'arcobaleno da un certo punto di vista, e per ognuno di questi colori portano una descrizione di una cultura organizzativa. Faccio degli esempi. L'azienda rossa è un'azienda che si è sviluppata prima della rivoluzione agricola, in cui il tipo di cultura organizzativa è molto concentrata sul potere. Il capo è il deus ex machina, gestisce il potere con dimostrazioni costanti della sua invincibilità. E in questa cultura, che oggi diciamo non è quasi più presente in senso pieno nelle organizzazioni moderne, oggi la vediamo però ancora, ad esempio, nelle bande di strada, nelle organizzazioni mafiose meno evolute, e lo vediamo anche in alcuni tratti dentro aziende, se vogliamo, più del mainstream moderno, ma non più come baricentro, no? Perché poi questi colori rappresentano dei tratti che possono essere presenti in una singola organizzazione in ambienti diversi, ma che comunque poi hanno un loro baricentro, no? Il baricentro rosso, per esempio, questo baricentro molto poco esistente oggi, mentre oggi, se usiamo il colore arancione, nell'arancione abbiamo le aziende moderne, in cui con questo arancione si indica una visione del mondo molto orientata al successo individuale, molto orientata alla crescita, molto orientata al profitto, che nasce, se vogliamo, dall'illuminismo, dalla rivoluzione industriale, dall'avvento della scienza. E ognuno di questi paradigmi, va anche detto, producono anche sempre degli effetti benefici, producono sempre degli elementi positivi, ma allo stesso tempo producono anche delle ombre che vanno tenute in considerazione e vanno riconosciute. Ad esempio, nel paradigma arancione, che è quello che contraddistingue un po' le multinazionali moderne, gli elementi di difficoltà sono quelli con cui iniziavo a raccontare oggi il libro, no? Quindi il rischio di eccessivo focus sull'efficienza, il rischio di perdita di senso e anche poi tutto ciò che ne consegue a livello macro di danni ambientali ed economici legati al fatto che poi la visione è molto individualistica. Ecco, è un libro che per certi aspetti è anche un po' sovversivo, tra virgolette, perché dice che le organizzazioni non dovrebbero avere delle regole, delle norme. Evitare le regole e le norme non è un'impresa facile. E quindi regole che però corrispondono poi alla gestione normale di un'impresa, in cui bisogna rispettare certe procedure, certe condizioni di lavoro, certe politiche interne. Le policy aziendali sono qualcosa che ha riempito anche dei libri, ma dei documenti importanti nella visione aziendale. Ecco, superare questa realtà è un po' sovversivo, ripeto. Sì, infatti è anche un rischio di, secondo me, di porre dei livelli di attenzione nella lettura di questo libro, no? Nel senso che il paradigma che la Lu descrive come TIL, che è il paradigma che considera quello emergente, no? Quello su cui le aziende più innovative oggi si stanno muovendo con grandi risultati, porta a tre svolte: l'auto-organizzazione, il senso di interesse, che è il senso di essere individui senza maschere al lavoro, e il senso di un proposito evoluto, che fa un po' il paio con il tema delle B-Corp, se vogliamo. Ecco, questi tre temi in realtà sono dei principi, no? Facciamo ad esempio l'auto-organizzazione. Cosa significa? Non significa che non ci siano capi, che non ci siano regole, che non ci siano. Ma la grande differenza della svolta legata all'auto-organizzazione è legata al fatto che più che di regole si parla di principi. E c'è una grande differenza, perché le regole sono restrittive, no? Quindi l'organizzazione è più forte dell'individuo, nei principi il bilanciamento è più equilibrato. Non è vero che non ci sono nell'auto-organizzazione capi, ma i capi si formano in modo naturale, sulla competenza, sul bisogno del cliente. Quindi sono organizzazioni che definirei più fluide, quelle che stiamo cominciando ad osservare. Ci sono, posso citare un esempio, uno dei più interessanti che sono andato a visitare personalmente, che è Buurtzorg, un'azienda infermieristica olandese, che applicando questi modelli è cresciuta da 7 persone nel 2007 a 15.000 oggi. È un'azienda che si occupa di assistenza a domicilio tramite infermieri, e quello che ha fatto su questo è proprio, dico soltanto che la sede, che in italiano chiamiamo sede oppure headquarters, no, in inglese, dove head sta per testa, no, dove le teste pensano, chiama Back Office. Sono 30 persone rispetto alle 15.000 che sono sul campo. E queste 15.000 persone sul campo sono tutte divise in team auto-organizzati di circa massimo 12 infermieri, e i loro, tra virgolette, capi, no? Come sarebbe in un'organizzazione classica, sono chiamati coach, e sono solo 15. Quindi 15 coach per circa 900 team di 10 infermieri. Questo cosa significa? Che il coach fa davvero un coach, non fa il capo. Ecco, quindi qual è il problema di fondo? Appunto la leadership. C'è un nuovo tipo di leadership in queste organizzazioni? Assolutamente. La leadership crea un diverso modo di interpretare l'organizzazione, se volessi fare la mia sintesi, nel senso che poi spesso vediamo organizzazioni simili che funzionano diversamente, perché è la leadership sottostante che rappresenta una visione con cui interpreto l'azienda, con cui interpreto il ruolo dell'individuo. Noi abbiamo in Italia l'esempio di Olivetti, no? Di qualche anni fa. Certo. Ecco, in questa leadership, la leadership è proprio una leadership che ha il compito essenzialmente di curare il proposito dell'azienda, quindi cercare costantemente di coinvolgere le persone sul perché facciamo certe cose, che non è il profitto è un risultato, e su essere un garante che il capitale dell'azienda non venga sperperato. Però il più delle volte i CEO, no, gli amministratori delegati di queste aziende, sono molto poco dei decision maker, no? Non sono persone che prendono decisioni per il cliente, sono persone che proprio preservano, sono dei guardiani, dei custodi del sistema valoriale dell'azienda. Ecco, e questo cambia completamente una visione della leadership, che dal mio punto di vista arriva ad una visione pedagogica di cos'è il padre, no? Certo. Un pedagogista che seguo, che ha finito un suo intervento dicendo: ma nell'era moderna quale sarà il ruolo del padre? No? Ecco, secondo me lo scalino di leadership che questo libro ci porta a vedere, che ci porta a riflettere proprio, ma questa nuova leadership come può mettere nelle condizioni le persone di essere veramente al centro e di esprimere di nuovo i loro talenti? Ecco, è certamente un libro che richiede una riflessione, che porta appunto a giudicare un po' le organizzazioni in una maniera nuova e a vedere anche delle grandi opportunità, però ci vuole un po' di coraggio anche a coglierle. Io ringrazio Alessandro Rossi, partner di PeopleRise, di essere stato con noi questa sera, ha scritto la prefazione del libro di Frédéric Laloux, Reinventare le organizzazioni, come creare organizzazioni ispirate al prossimo stadio della consapevolezza umana. L'editore Guerini Next, 512 pagine per 34 euro. Ringrazio anche Filippo Aureggi in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.